ragazzi dell'università che sono ancora in davanti a Piazza Aldo Moro. Noi contattiamo adesso un compagno di RU che dovrebbe essere al telefono, di Resistenza Universitaria. Pronto? Pronto? Pronto? Uè, ci senti? Ciao! Sì, mi sento. Senti, allora anche Resistenza Universitaria, come tutto un po' le anime del Movimento Universitario della Sapienza, ha aderito a questa giornata di mobilitazione. Che cosa significa? Non sento niente così, però. Mi senti? Sì, un po' disturbato. Un po' disturbato. Comunque, diciamo sì, che io stavo più fuori alla Sapienza. Sì, diciamo che anche Resistenza Universitaria ha aderito a questa giornata di mobilitazione. E che cosa vuol dire, anche per, secondo quella che è stata la vostra analisi, che cosa vuol dire difendere l'acqua, difendere quelli che difendere sono l'acqua i beni pubblica, nel l'acqua senso, pubblica? Noi intendiamo difendere come difendere tutti i beni comuni, quelli veri, cioè nel senso tutte le risorse naturali, tutte quelle cose che dovrebbero appartenere naturalmente a tutti quanti i cittadini e su nessuno dovrebbe avere il diritto di speculare e farci soldi, fondamentalmente. Pensiamo appunto che il disegno di privatizzazione dell'acqua vada invece proprio nella direzione della privatizzazione di tutte appunto quelle risorse, quei beni che dovrebbero appartenere a tutti e quindi che tolgono che mostrano ancora di più come per il profitto di pochi si cerca di mettere le mani su cose essenziali. Così come si parla dell'acqua, oggi si parlerà pure del nucleare e del rifiuto che c'è da ribadire ancora una volta, è stato già espresso più di 20 anni fa dai cittadini italiani verso il nucleare, quindi oggi è una giornata a cui ho deciso di partecipare perché è molto importante per tutte queste motivazioni. Oh, ecco, sì, tu hai parlato di beni comuni. Ora, il discorso sui beni comuni è estremamente complesso, anche perché molto probabilmente se ne è anche abusato. Noi ricordiamo uno striscione molto famoso a firma, credo, Fiom, ma correggimi se sbaglio, lavoro bene comune, quindi troviamo una serie di cose un po' incongrue. Bene comune, almeno penso che nessuno oggi ancora ne abbia dato una precisa definizione giuridico, una precisa definizione giuridica, e quindi spesso si usa a sproposito, spesso questa terminologia è utilizzata anche da quelli che poi i beni comuni non li difendono affatto, vedi ad esempio la vicenda dell'acqua pubblica in Puglia dove c'è il nostro ben amato Vendola, sì, presidente, sì, sì, sì, della regione, insomma, cioè, c'è chi ne abusa, certo che poi invece però in un senso più, cioè nel senso della difesa dei beni territoriali, dell'ambiente, che quelli sì sono beni comuni che appartengono a tutti senza distinzione di niente, a tutte le persone che abitano un certo territorio, quindi in quel caso penso che sia molto corretto parlare di beni comuni. Sì, infatti, no, diciamo che l'unica definizione che ho sentito io è quella di mezzi con alto valore d'uso e nessun valore di scambio, quindi però questa è sempre una definizione molto vaga e complessa. Soprattutto quello che poi interessa dire è che questi beni comuni, poi la gestione dei beni comuni, perché questa è la vera questione che poi sottende che sottende tutto, anche questa la privatizzazione dell'acqua, però è un problema di gestione. Deve essere, secondo il tuo giudizio, una fatta da organizzazioni magari indipendenti, pubbliche ma non statali, oppure deve essere nelle mani dello Stato perché ha garanzia un po' di tutti i cittadini, secondo te? Qual è? Secondo me personalmente dovrebbe essere nelle mani di enti pubblici, ora che siano dello Stato, del comune. Cioè, probabilmente ci sono in Italia anche degli esempi virtuosi di gestione locale di alcune dell'acqua o delle risorse energetiche del comune, del comune intendeva un'altra cosa, pregiudizialmente contrario alla delocalizzazione nella gestione delle cose. Sicuramente quello che rimane è che come proprietà sicuramente deve rimanere pubblica, sia quella dell'acqua che quella di tante altre cose, praticamente tutto ciò che riguarda la vita quotidiana delle persone dovrebbe sempre rimanere pubblica, perché sicuramente una proprietà collettiva è garanzia di una maggiore trasparenza, di una gestione più democratica, più egualitaria, che non fa appunto gli interessi di pochi a discapito dei molti, che poi è quello che fondamentalmente ci interessa. D'accordo, allora io ti ringrazio. Voi continuerete a seguire questo corteo. Intanto siete riusciti a partire, perché prima ci dicevano che stava partendo il corteo. Guarda, noi come al solito mi sa che facciamo da. No, noi siamo ancora a piazza Aldo Moro. Quindi ancora fermi. Altri gruppi di studenti che si stanno unendo, c'è un sacco di gente, stanno andando qualche centinaio di persone. E stiamo aspettando di partire per far vedere che appunto il movimento studentesco non si chiude solo sulle battaglie corporative, ma include la sua battaglia all'interno di un percorso più largo di partecipazione e a tutte quelle battaglie che sono battaglie per la democrazia poi alla fine. Sì, d'accordo. E quindi sto aspettando che si iniziano altri, tra un po' partiremo, andremo a Piazza del Lupo al Corteo Nazionale. Va benissimo, allora noi continueremo a seguire, ti ringraziamo per questo intervento, insomma un saluto, un abbraccio, va bene? Un abbraccio. Ok. Ciao.